In questo lunedì, dopo la Pentecoste, la Chiesa ambrosiana celebra una festa di Maria, Maria, Madre della Chiesa. E io vorrò dire qualche cosa su Maria e sulla Chiesa, perché tanta gente ama la Madonna, ma forse non sempre, tanti anche non la amano. Io purtroppo ho incontrato più di un sacerdote che non riesce a cogliere il valore di Maria all'interno della fede cristiana cattolica. Eppure Maria, come dice bene il Magistero della Chiesa, Maria è collegata con la Chiesa, è collegata con le Sacre Scritture. E mi rifaccio, se avete il Messalino Quotidiano, vi invito a prendere il prefazio. Mi rifaccio al prefazio perché il buon credente, il buon cristiano usa tutta la liturgia come preghiera. E questo bel prefazio ci riporta i tre momenti di cui parla la Bibbia, in cui Maria è collegata con la vita della Chiesa di Gesù. Anzitutto dice: ai piedi della croce raccolse il testamento del figlio morente. Guardate, io ho avuto la fortuna di fermarmi su un po' a lungo su questo testo e io lo suggerirei a voi, chi di voi ha tempo, impari a pregare la liturgia che è una fonte di preghiera straordinaria. Raccolse il testamento del figlio morente e divenne madre di tutti gli uomini, rinati, grazie a quella morte, a una vita nuova. Quindi Maria è strettamente collegata con Gesù e con noi ai piedi della croce. Ancora, mentre gli apostoli attendevano il dono dello Spirito, Maria si univa alle loro suppliche ed era con loro segno e modello della Chiesa in preghiera. Ecco questo grande momento della preghiera della Chiesa nel Cenacolo con Maria, che aspettavano insieme la Pentecoste. Ecco perché non è una cosa sbagliata, come qualcuno insinua, o staccata da Dio, da Gesù, Maria. L'amore a Maria, il culto a Maria, la preghiera a Maria è strettamente unita alla Chiesa, strettamente unita allo Spirito Santo, a Gesù. Maria si univa alle loro suppliche. Che bello che Maria si unisce ancora alle nostre suppliche quando le diciamo prega per noi, sia nell'Ave Maria sia nelle litanie, prega per noi. E infine, elevata alla gloria dei cieli, questa madre affettuosa, protegge il suo popolo nell'arduo pellegrinaggio e ne sostiene i passi sull'aspro cammino in attesa del ritorno del Signore. E quindi il popolo cristiano fa benissimo a pregare Maria, che è stata portata in cielo dal suo Figlio divino. Ecco, cari cristiani, vi auguro di trovare nella liturgia la stretta unità della fede e della preghiera, secondo quella bella espressione latina, ma facile da capire, lex orandi, lex credendi. Ciò che è occasione, è legge di preghiera, è anche legge di fede. E conclude il prefazio: per questo dono del tuo immenso amore, ci rivolgiamo al Padre, uniti agli angeli e ai santi, la Madonna è sempre con gli angeli e coi santi. Eleviamo, o Padre, l'inno della gioia perenne, per cui chiediamo questa grazia per intercessione dello Spirito Santo, che sempre, ma soprattutto in questo tempo pentecostale, vuole inondare della sua grazia la Chiesa. chiediamo allo Spirito Santo il dono della preghiera, il dono della fede, il dono dell'amore a Maria.